crescere. È forse un lento veleno. Tutto si complica. Ma quanto pesa la tua identità? Se avrò mai la possibilità di stare al gioco dei contrari, si alterna felicità alle stagioni senza posa. Un altro temporale.